Allora, da un punto di vista geologico, questi due suoli vengono chiamati proprio in due modi diversi. Quello di La Morra viene chiamato con le marne di Sant'Agata. Sono quindi i suoli più recenti di quelli che prendiamo in considerazione oggi. Quelli invece di Castiglione Falletto sono le cosiddette arenarie di Diano. Sono invece più suoli più antichi, con un grado quindi di maggior calcificazione. Le arenarie sono praticamente dei suoli belli compatti che danno vita a questa roccia molto tenera, molto molto facilmente lavorabile, e che quindi il clima ha notevolmente modificato e si frantuma proprio in superficie, lasciando, come dire, delle piccole scagliette. Sono delle scagliettine appena appena gialle brune, molto molto leggere. Dall'altra parte invece le marne di Sant'Agata sono dei suoli invece molto più chiari, molto, molto più sabbiosi, quindi con una tessitura, come dire, più grossolana, meno calcificata, e dà vita quindi a un suolo un pochettino più, come dire, più friabile, più leggero, proprio perché ha meno componenti calcificati. Le radici qui tendono a lavorare un pochettino in un modo diverso. A Castiglione Falletto le radici hanno assoluta necessità di andare a scavare in fondo per avere sempre il giusto grado di umidità. Nelle mare di Sant'Agata invece l'acqua è anche più disponibile in superficie, quindi lavorano proprio in un modo diverso, qualcuno più in superficie, qualcuno invece più decisamente in basso. I caratteri quindi che nascono da questi vini sono molto molto diversi. Vedete subito, provate ad annusarle, a passare da l'uno all'altro per sentire proprio le differenze immediate che si possono cogliere. Allora, sentite come nel primo vino vi sia, come dire, un aspetto fruttato molto deciso, molto netto, un frutto abbastanza dolce, maturo. Poi arrivano, come dire, delle sensazioni un po' speziate, abbastanza morbide, abbastanza dolci. E quello che identifica un pochettino questo vino è questo odore appena appena affumicato, l'odore del camino spento, l'odore della legna bruciata, che tende appena appena a ricordare un pochettino, appunto, questa sorta di lieve affumicatura, quello delle caldarroste, insomma, tanto per capire un po' queste robe, della cenere della legna. E sentite che qua è leggero, ma si comincia a far sentire appunto questo elemento un po' caldo, un po' morbido, appunto dato da questa impressione di legna arsa. Nel secondo vino invece sentite come l'elemento principale sia una nota floreale, questo profumo di rosa selvatica, di rosa appena appena sfiorita, di rosa quella delle siepi selvatiche, e questa nota fruttata molto più acerba rispetto a quella precedente, tende appena appena a ricordare i frutti di bosco, un pochettino di lampone, quindi con questa componente appunto molto fresca, molto succosa e piuttosto acidula. Il primo vino quindi tende a darsi con una certa maggior facilità, con una certa immediatezza. Il secondo invece sembra un pochettino, come dire, più austero, ha bisogno di qualche elemento in più per farsi conoscere, per darvi delle sensazioni. Il primo quindi più spontaneo, il secondo invece un pochettino più denso, più complicato, meno immediato, ha meno voglia di farsi vedere subito, ha meno voglia di farsi sentire immediatamente. E proviamoli anche al gusto per vedere cosa cambia. Anche in bocca sentite questa nota fruttata molto dolce, molto matura, bella ricca, che subito viene aggredita da questo tannino molto fitto, molto spesso, che lavora molto di più sulle pareti della bocca. Sentite anche la differenza con il vino precedente, dove questo tannino era molto fine. Qui invece diventa un pochettino più ruvido, un pochettino più vivace. Tende a lasciarvi proprio sulla bocca un'impressione di carta abrasiva, appena appena graffiante sulle pareti della bocca. Ma certamente la sensazione complessiva è molto dolce, molto morbida e molto matura. Quando invece prendiamo il secondo vino e che appunto lo annusiamo già, capiamo che c'è qualche cosa di diverso, di sostanzialmente diverso in questo profumo, e quindi sentiamo anche qui al gusto cosa cambia. Allora sentite come l'elemento fruttato sia meno dolce, meno polposo, ma più liquido, più leggero, più legato a questi elementi molto succosi. Di là c'era un frutto più maturo, un pochettino più denso, da questa parte invece un frutto decisamente più liquido, più succoso, non masticabile, ma come invece la sensazione del tannino si sia fatta più vivace, più fitta. La trama tannica di là, che si sentiva graffiare un pochettino di più, qui si compatta, diventa più solida, più consistente. C'è più tanto tannino, c'è una maggior quantità di elementi tannici, e di conseguenza sulle pareti della bocca si forma una sensazione più avvolgente, più dolce, dove il carattere del tannino tende a essere più fitto, più compatto. È come se noi prendessimo tante spine, se sono rade ci appoggiamo la mano, ci pungono, ma se noi le avessimo tutte strette, l'una serrata vicino all'altra, ci potremmo stendere sopra, nel senso che si ha l'effetto vellutato, tanti fili, tanti aghettini, ma messi in un modo così serrato, così fitto, che danno quasi un'impressione di morbidezza e di dolcezza. Una sensazione quindi tattile molto molto diversa tra questi due vini, che hanno quindi proprio dei caratteri molto molto diversi. Sentite quanto è dolce la parte fruttata del primo vino, e quanto invece nel secondo vino parta invece l'elemento tattile a essere l'elemento di maggior consistenza, come appunto da una parte c'è il frutto, dall'altra parte c'è la tannicità che domina la sensazione gustativa e quindi la sensazione tattile. Ecco, vedete quindi chiaramente come due terroir diversi danno vini totalmente diversi. Il suolo, e quindi l'esposizione del primo vino diversa dal secondo, dà vita a un carattere diverso. Sono vini molto simili, nel senso che hanno molti elementi in comune, ma vi sono anche molti elementi che appunto li differenziano e li fanno appunto sembrare due vini che vengono da aree diverse. Proprio vedete come quindi l'elemento naturale sia l'elemento che caratterizza il gusto, la personalità di un vino. Il primo quindi un vino più decisamente generoso, più immediato, più facile da ascoltare, il secondo invece più complicato, più complesso, un po' più difficile da leggere, perché è appunto molto molto giocato più sulla parte tattile, sulla parte di un sapore meno immediato e meno evidente. Quindi due terroir diversi che danno appunto vita a vini molto molto diversi. Vedete quindi quanto è importante mettere assieme questi elementi, perché appunto mettendoli, combinando in un modo diverso questi elementi, si ottengono sempre risultati diversi. Per ultima cosa, vogliamo provare appunto ad andare proprio in un ambiente molto diverso da quelli finora assaggiati. Andiamo in Toscana, andiamo in una zona molto, molto calda, siamo sulla costa di Bolgheri. Bolgheri è un comune della provincia di Livorno, caratterizzato da, naturalmente conosciuto probabilmente dai versi di Carducci, quando parla appunto di San Guido e di questo viale alberato che porta appunto nell'entroterra. Qui vi sono dei terreni apparentemente pianeggianti, non sono invece pianeggianti, ma fanno parte di una sorta di terrazzamento, di grande terrazzamento che dalle sabbie delle sponde del mare piano piano si alzano verso gli Appennini. Sono suoli quindi anche qui dove si fondono due elementi. Nei gradini più bassi sono praticamente anche questi qui dei fondali marini, il mare piano piano si è ritirato, e dalla parte invece più in alto, dove si hanno invece tutti quei detriti alluvionali che dalle colline si sono portati verso la pianura, proprio con il dilavamento che le piogge e la neve, il ghiaccio eccetera eccetera che si è avuto anche nel periodo delle glaciazioni ha portato quindi più verso il mare. Qui abbiamo trovato, come dire, una Toscana insolita, una Toscana diversa. Siamo sempre portati a pensare che in qualche modo il vitigno principale della Toscana fosse il Sangiovese, ma in effetti dove i territori sono i cosiddetti tipici suoli toscani, effettivamente lì il Sangiovese è il vitigno di eccellenza, dove abbiamo quindi Galestro, dove abbiamo Alberese, cioè dove abbiamo quelle rocce che stratificate molto molto sottili che danno vita a quelle scagliettine scure, nere nere, che appunto caratterizzano questi suoli. Qui invece abbiamo proprio un elemento totalmente diverso, abbiamo appunto un suolo che nell'entroterra, diciamo così, toscano non esiste assolutamente, quindi già un suolo molto molto diverso. Abbiamo un clima anche molto molto particolare, perché qui abbiamo delle brezze molto molto calde, perché il sole qui batte decisamente, con delle giornate caldissime, ma per fortuna vi sono poi le brezze marine che cominciano a spirare nel tardo pomeriggio e tendono a rinfrescare un pochettino l'ambiente. Qui serviva naturalmente trovare, come dire, delle uve che potessero ben acclimatarsi in questo ambiente così diverso dal punto di vista del suolo e così particolare per l'elemento climatico, per l'elemento ambientale. Quindi un ambiente toscano, ma che nulla ha a che fare con quello che noi siamo abituati a conoscere di elemento toscano, come quello del Chianti Classico, di Montalcino e di tutta la zona praticamente centrale delle colline toscane. Quindi un ambiente totalmente diverso, aveva bisogno di trovare il vitigno che potesse bene interagire con questo ambiente. E naturalmente nel corso di questi ultimi anni si è lavorato molto, ci sono state delle persone che si sono applicate, hanno cercato in qualche modo di capire come potessero questi suoli esprimere la loro particolarità, la loro unicità, e sono stati trovati appunto con i vitigni bordolesi, con i vitigni che sono resi famosi dalla zona di Bordeaux, vale a dire Cabernet Sauvignon e Merlot. Da questi due vitigni, che appunto in Francia sono diventati l'emblema della qualità dei loro vini, che hanno naturalmente solcato tutti i mari del mondo, tutte le terre del mondo, come i vini di grande prestigio, di grande qualità, ecco che sono stati trasportati in un ambiente che avesse probabilmente qualche elemento in comune. Certamente l'apporto, diciamo così, del clima marino li ha certamente accomunati, perché anche là si tratta di suoli in prossimità del mare, quindi anche lì c'è l'elemento delle correnti tra calde di giorno e fredde di notte, ma questi elementi, come dire, sabbiosi e ghiaiosi che accomunano questi territori, questi due ambienti. Ecco che allora questa terra si è trovata appunto ad essere una terra nel quale questi due vitigni si esprimono con grande eleganza, con grande forza. Ed è appunto questo il vino di cui vogliamo parlare adesso, perché è rappresentativo proprio di questa terra e di questo elemento ambientale. Nasce quindi un suolo diverso, con un clima diverso, dei vitigni diversi e naturalmente anche dei modi di vinificare diverso, perché questi sono vitigni che hanno invece una tannicità estremamente fine, minuta, molto sottile, molto diversa quindi dalla tannicità del Pinot Nero o del Nebbiolo con i quali appunto vengono prodotti i Barolo. Qui abbiamo, come dire, tutti degli elementi estremamente fini, sottili, minuti, che danno dei timbri, dei caratteri molto molto levigati, molto molto morbidi. Qui nascono in qualche modo forse i vini, come dire, più dolci, più morbidi, più avvolgenti, più levigati, proprio dove ogni asperità è stata consumata, è stata lisciata, è stata assolutamente tolta.